l'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femmes, women, mulieres, femmes, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women move forward like the runners in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, darling, eat. Eat the summer cannibals, eat, eat, eat, you eat the summer. Buonasera a tutte, ad ottobre presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma è stata ospite per la presentazione del suo ultimo libro I Demoni dell'Eden, Lidia Cacio, giornalista, attivista, femminista, perseguitata dalle mafie a seguito delle sue inchieste sulla prostituzione e la pedopornografia in tutto il mondo. Autrice di Schiave del Potere, una mappa della tratta delle donne e delle bambine nel mondo, e Memorie di un'infamia, Lidia Cacio è da anni impegnata nella lotta allo sfruttamento delle donne e delle bambine nel mondo. Nel libro I Demoni dell'Eden, un'accurata inchiesta giornalistica, Cacio parla della fitta rete criminale e delle collusioni politiche che la sorreggono, che vede al suo vertice il proprietario di alberghi, tra virgolette chiaramente, perché tutto è tranne che un semplice proprietario di alberghi, Succar Curi. Il libro, oltre a denunciare l'esistenza di questa rete criminale, ne espone le dinamiche, approfondisce i rapporti e le connivenze tra il potere politico e il potere criminale e dà voce ad alcune delle vittime della pedopornografia. Dopo l'uscita di questo libro, Lidia Cacio è stata illegittimamente arrestata, torturata e condotta nelle carceri di Puebla. Oggi Cacio continua le sue inchieste e la sua lotta culturale contro la violenza. Stasera presentiamo la traduzione integrale dell'incontro. La maggior parte dei bambini in Messico subiva moltissima violenza, non solo violenza fisica e psicologica, ma anche violenza sessuale. E questo lo sapevo fin da bambina. E per me era una differenza molto preoccupante scoprire che a casa mia noi eravamo al sicuro, eravamo una famiglia di classe media, però avevamo da mangiare, ricevevamo affetto, amore, ma soprattutto non eravamo vittime di violenza dentro casa. Quando uscivamo da casa, invece, per il lavoro di mia madre, scoprivamo ogni volta che questi bambini e bambine avevano normalizzato la violenza. Quando iniziai la mia carriera di giornalista a 23 anni, immediatamente il mio editore, che era un messicano molto macho, mi mandava a fare servizi su temi come la povertà o la crisi economica. E quando andavo a intervistare le donne, Queste non volevano parlare della crisi economica, ma piuttosto di quel che a loro toglieva potere, che era la violenza. La violenza dei loro mariti, la violenza domestica, la violenza del governo, quella della corruzione, dell'impunità. E compresi che tutta questa infanzia e crescere con una donna esemplare come era mia madre erano state una preparazione per portare il mio femminismo nel giornalismo. Ovviamente fin da subito i miei editori, che erano tutti uomini, si infastidirono molto. Non erano contenti poiché io avevo molta chiarezza nella conoscenza della scrittura agita dalla prospettiva di genere. All'epoca, 28 anni fa, questo era molto strano. Ero come una pazza, una giornalista folle che voleva scrivere di qualsiasi cosa, di economia, di finanza, di turismo, sempre dal punto di vista delle donne, dei bambini e delle bambine. Se il turismo giovasse all'infanzia o no in Messico, se le donne vivevano meglio nelle zone con una migliore economia turistica, che sono quelle in cui vivo io a Cancun. Negli anni la pazza è diventata la specialista, anche se molti credono ancora che io sia folle. Ma per me questo conta, perché mi sembra ci sia un giornalismo molto diverso, che non facciamo tutte, ma che sicuramente facciamo in tante. Questo giornalismo è legato a un'analisi molto formale della realtà, ma allo stesso tempo è un'analisi da un punto di vista diverso, in grado di mettere in discussione i poteri tradizionali. E questo tipo di giornalismo, questo da cui ho condotto ricerche sulle mafie, sui trafficanti di esseri umani, sui pedofili, questo mi ha portato a scrivere libri che stiamo condividendo ora in Italia: I demoni dell'Eden, Memorie di un'infamia e Schiave del potere. Ebbene, io non potrei fare un tipo di giornalismo diverso. Mi viene assolutamente spontaneo condurre ricerche e lavorare come attivista e come giornalista in questo luogo, del quale vado molto fiera, che è un territorio intellettuale che di certo è un territorio intellettuale femminista, che è per natura pro-democratico e che nasce anche dalla nozione del fatto che ho gli stessi diritti di qualsiasi uomo che ho davanti a me. Tutto il mio lavoro giornalistico e come attivista di diritti umani parte sempre da questo principio di uguaglianza, perché per me l'uguaglianza non è un ideale, ma un fatto concreto. Tutti i giorni mi alzo e sono giornalista e faccio attivismo come cittadina per difendere i miei diritti e quelli delle altre. E il mio lavoro parte da qui. We'll be right back. Quando scrissi I demoni dell'Eden, mentre viaggiavo per il Messico presentando il libro e in altri paesi, iniziò ad accadere qualcosa di molto interessante, e cioè che gli uomini, soprattutto gli uomini attempati di 60 e 70 anni, alla fine della presentazione del mio libro I demoni dell'Eden, prendevano la parola dicendo che dopo aver letto il mio libro avevano sentito per la prima volta in vita loro che non erano responsabili dell'abuso di cui erano stati vittime nella loro infanzia. Questo mi ha colpito molto, poiché gli uomini non parlano di questo argomento e men che mai in pubblico, ma cominciò ad accadere in maniera costante che ogni volta che un uomo si alzava in piedi dal pubblico e mi diceva che era stato abusato sessualmente da piccolo, tanti altri cominciavano a farlo. C'è un effetto catartico nel poter leggere un libro giornalistico che allo stesso tempo è in grado di fare questa distinzione tra carnefici e vittime, e tra le ragioni dei carnefici e le motivazioni per cui le vittime sentono che nessuno le può aiutare. Da qui sembra che tutti i giornali, i giornalisti del mondo debbano prepararsi per offrire spiegazioni. Qualsiasi giornalista che crede di poter documentare questo tipo di crimini contro i bambini e le bambine deve aver chiara la prospettiva dalla quale parla, soprattutto rispetto alla pedofilia o alla pedopornografia su questi argomenti. Un altro tema che mi colpisce e che è molto simile sia in Italia che in Messico è il ruolo che ha giocato la religione nelle nostre culture per assecondare la pedofilia. Giacché la religione antepone sempre, sia nella Chiesa che nello Stato, l'integrazione della famiglia. Da lì, dalla cultura religiosa, proviene questa nozione che abbiamo ereditato sia in Messico che in Italia e in altri paesi latini rispetto alla colpa che deve avere la madre, perché deve aver fatto qualcosa di molto brutto affinché il padre o il nonno o lo zio abusino sessualmente di un bambino o di una bambina. E dobbiamo mettere sul tavolo della discussione il discorso della religione, e non è un caso che in questo periodo in tutto il mondo stiano spuntando fuori questi casi di sacerdoti pedofili. È molto importante parlare di questi argomenti, poiché ci aiutano a capire che la Chiesa, non soltanto il Papa, deve chiedere perdono all'umanità per quello che ha fatto, e bambini e bambine nell'arco dei secoli, e che è inoltre corresponsabile di prendere parte alle politiche pubbliche e alle legislazioni sulla tutela dell'infanzia. Quando un giudice afferma che una madre sta fabbricando una storia di pedofilia, il giudice invia al bambino il messaggio, parliamo soprattutto di bambini maschi, che primo lui non ha diritti e che secondo, se è un maschio, può fare quel che vuole e non sarà mai punito. Cioè, ogni volta che un giudice in questo paese o in qualsiasi altro paese decide di non giudicare la violenza pedofila su di un bambino, quello stesso bambino può diventare un pedofilo. I giudici hanno una grande responsabilità in tal senso, sono complici della costruzione culturale dell'abuso degli uomini nei confronti di altri uomini. Qui sappiamo che in tutte le statistiche mondiali di omicidio gli uomini uccidono altri uomini, uccidono le donne, stuprano i bambini e le bambine e le donne e gli uomini. E allora la domanda fondamentale è: dove sono gli uomini che si manifestano contro la violenza? E mi sembra che non sia più una responsabilità delle donne né delle femministe continuare a insistere su questo tema. C'è un'emergenza mondiale sul tema della violenza dei bambini e delle bambine, che ha a che fare con una maschilità che accetta la violenza e la normalizza, e un'altra maschilità che rifiuta la violenza ma non si assume la responsabilità collettiva. L'assenza degli uomini e la difesa collettiva dei bambini e delle bambine sono in parte quel che rafforzano questa rete criminale. Sono certo i mafiosi, i criminali, i trafficanti, ma sono anche gli uomini a mantenere il silenzio. E mi sembra che sia una questione molto importante. Infine un'altra cosa che vorrei qua dire è che i paesi che hanno compreso che bisogna perseguire legalmente i pedofili, non solo all'interno dei propri confini ma anche all'esterno, stanno raggiungendo obiettivi molto importanti. Ed è da qui che, per esempio, gli statunitensi hanno compreso che la pornografia infantile è un vero e proprio prodotto della pedofilia normalizzata. E allora quel che hanno fatto non è stato solo perseguire i pedofili nelle loro case, negli Stati Uniti, quelli che stupravano bambini e bambine americani. ma hanno anche avviato una politica che riguarda gli uomini statunitensi che viaggiano in altri paesi, in cui si cerca nel loro computer immagini di pornografia infantile. Un esempio molto chiaro, e questo riguarda tutta l'Europa e gli Stati Uniti, è che quando un uomo di 50 anni viaggia in Cambogia o in Thailandia, ritorna abbronzato, porta un bagaglio piccolo in cui c'è sempre il computer con sé, e 9 volte su 10 le autorità aeroportuali statunitense aprono il suo PC e trovano immagini di pornografia infantile. Tutte le autorità, incluso le autorità italiane, hanno molto chiaro il profilo dell'uomo italiano, americano o messicano, o dell'uomo spagnolo che viaggia per abusare di minori in altri paesi. E queste sono le urgenze che la società deve porre di fronte alle autorità, poiché sono loro in possesso di dati statistici. E sono i piccoli dati che a volte ci sfuggono, perché ci sembra enorme il tema dei diritti umani e ci appare più concettuale che concreto. Ma ritengo che ci siano molte azioni concrete che come comunità in Italia o in Messico possiamo fare per esigere con chiarezza che le autorità svelino quanti pedofili, per esempio, hanno arrestato e come, quanta pornografia infantile si consuma in Italia. Perché quando si capisce quanta pornografia infantile consumano gli italiani, si capisce quanto sono a rischio i tuoi figli, le tue figlie e i tuoi nipoti. Sono queste le domande che dobbiamo porre alle autorità. Allora, la domanda che viene fatta a Lidia Cacio in questo momento della conferenza è se i genitori vendono i propri figli per sesso, diciamo. E la risposta è questa. Nelle ricerche che ho svolto per il libro Schiave del Potere durante 5 anni in cui ho viaggiato in molti paesi del mondo, in effetti esistono casi eclatanti, e credo che siano esigui, sono pochissimi i casi in cui un padre, una madre o entrambi decidono di vendere suo figlio o sua figlia nel turismo sessuale. Ad esempio in Vietnam mi sono imbattuta in 2 casi. Uno in cui il padre era un giocatore patologico, un gambler, cioè voleva i soldi e vendeva sua figlia, la portava tutti i giorni in un postribolo e la sera la riportava a casa. La moglie lo sapeva ma non poteva fare nulla, non aveva strumenti di alcun tipo per difendersi e per difendere sua figlia. Un altro caso era una coppia, il padre e la madre, a sfruttare la figlia e il figlio. Nella maggior parte dei casi, però, nelle condizioni di estrema povertà, tanto in Asia quanto in America Latina, le famiglie molto povere affidano le figlie, soprattutto molto piccole, o i figli, i bambini, a persone conosciute dei loro stessi villaggi, affinché questi li portino a lavorare in città allo scopo di farli avere una vita migliore. Ma queste famiglie non affidano mai i loro figli per lo sfruttamento sessuale. Quel che accade in genere è invece che affidano le figlie, le bambine indigene, per farle lavorare come collaboratrici domestiche, e i bambini come giardinieri, come collaboratori domestici o addetti alle pulizie d'uffici. Questa persona conosciuta della comunità, però, è quella che, una volta portati in città, inizia a sfruttarli sessualmente. In molti casi che ho documentato per 4 anni consecutivi nel Messico, Colombia, Argentina, Cambogia e Thailandia, succede quanto segue, quello che ho appena detto. E inoltre l'uomo, assieme alla donna appartenenti alla comunità che si è portato i bambini e le bambine con sé, invia sì un po' di soldi alle famiglie, ma queste che sono molto povere non comunicano telefonicamente con i loro figli e le loro figlie. Il loro

Le mafie italiane certamente hanno vincoli proprio qui in Italia con i cartelli messicani sulla tratta delle donne, di bambini e bambine. In Messico però quella che stiamo vivendo è una situazione estrema in cui noi donne, da un lato, siamo quelle che quasi combattono in prima linea. È quasi una cifra mondiale e in Messico è ben avvalorata dai dati. Il 50% delle organizzazioni civili è fondato da donne, gestita da donne e fatte funzionare da donne. In certi casi ci sono degli uomini che ci lavorano. Questo cosa vuol dire? Significa che le donne, in questa situazione di guerra che stiamo vivendo in Messico, stanno assumendo la responsabilità dell'impegno nei confronti delle vittime di questi crimini. Le organizzazioni contro il sequestro, quelle contro la tortura, contro il sequestro di minori per renderli sicari o assassini, vengono fondate e messe in atto da donne. Queste organizzazioni non ricevono fondi pubblici, per cui oltretutto le donne devono lavorare per poter operare in queste organizzazioni. Gli adolescenti maschi, soprattutto tra i 12 e i 15 anni, si trovano in una situazione di estrema fragilità, poiché se vivono nelle zone in cui il narcotraffico è molto potente, questo vengono condotti a una nuova modalità di tratta di esseri umani, che è una novità per l'America Latina, ma non lo è per questa zona qui. Non lo è ad esempio per l'Africa, e cioè la tratta per trasformarli in bambini soldato. In questo caso sono i bambini soldati del narcotraffico. Ci siamo imbattuti in centinaia di bambini scomparsi che poi appaiono morti ammazzati, persino con le armi in mano, che furono sequestrati dai narcotrafficanti che li hanno sfruttati. È una forma di tratta che il governo messicano oggi non vuole riconoscere, ma che diversi giornalisti hanno documentato. La guerra contro il narcotraffico, che è una falsa guerra poiché prende di mira la società civile e non risolve il problema vero e proprio, sta producendo molta più violenza di genere. Sta mettendo un doppio peso sulle spalle delle donne che devono far fronte a tutte le problematiche riguardanti la violenza e che devono per giunta sopravvivere in una situazione di impunità quasi assoluta. Ieri in Messico un dirigente, come tutti gli imprenditori organizzati in Messico, ha ratificato l'informazione ufficiale. Il 94% di tutti i crimini commessi in Messico rimane impunito. Questo accade oggi. In un contesto del genere noi portiamo avanti queste ricerche. Questo significa, ad esempio, che il presidente messicano ora mi considera una nemica del Messico e non una buona cittadina, perché me ne vado in giro per il mondo a dire la verità. A questo punto Lidia Cacio risponde a una domanda sulla compatibilità tra la tutela dei diritti delle lavoratrici sessuali e la prevenzione della tratta e come queste due istanze possano coesistere all'interno di un'unica legge. La risposta è questa. Dopo aver viaggiato per 5 anni nel mondo e aver svolto ricerche in paesi come la Germania, l'Olanda, in cui il lavoro sessuale è legalizzato, e in alcune zone dell'Australia, come a Melbourne, quello che mi domandavo era: è vero che se la prostituzione cambia nome e volto e ora si chiama lavoro sessuale con dei diritti e le prostitute pagano le tasse, tutto funziona meglio? E quel che ho scoperto è che non è così. Quello che succede in realtà è che all'interno di questa struttura formale di lavoro sessuale si favoriscono alcune donne dell'elite, quelle che fanno le lavoratrici sessuali VIP per i primi ministri, per i politici, per gli attori, per gente che può permettersi di pagare $500 per passare una notte con una ragazza. Ma le donne di strada in Germania o in Olanda, ad esempio, quelle che si prostituiscono nei bordelli, si trovano nelle stesse condizioni di sfruttamento di una lavoratrice della peggiore maquiladora di Ciudad Juárez o di Tijuana. Questa deve pagare le tasse, mentre una lavoratrice sessuale in Germania, per poter pagare il fitto della stanza che occupa, in cui fa sesso, ha bisogno di 3 clienti al giorno. Se la donna ha più di 30 anni, ha solamente 3 clienti al giorno, deve pagare le tasse e per di più deve pagare anche per la sua protezione, poiché i clienti non sono passati per queste conferenze, per le conferenze, qui intende le conferenze femministe che si fanno e di cui si parla appunto della tratta e della violenza contro le donne. Quindi dice: i clienti non sono passati per queste conferenze, non conoscono il problema della violenza, non lo vogliono riconoscere. I clienti vanno con le donne, si chiamino prostitute o lavoratrici del sesso, perché vogliono una donna reificata, una donna oggetto con cui fare quello che loro vogliono. E allora queste donne, che sono formalmente lavoratrici del sesso, si servono di protezione di ogni tipo. La maggior parte di loro in Germania sta ora uscendo dal sistema legale per andare sulla strada, luogo in cui la prostituzione è illegale, poiché non possono più pagare le tasse, e quando escono dal sistema tornano nelle mani dei trafficanti. In Germania ho documentato 2 casi in cui un trafficante di esseri umani molto famoso, complice di sicuro di alcuni nigeriani che portavano donne africane in Europa, lui inizialmente era un trafficante, un fuorilegge, un criminale, ma in Germania ha regolarizzato poi la sua posizione grazie all'industria del commercio sessuale, e dal mafioso criminale che era si è trasformato in un uomo d'affari e ha aperto un albergo. Lui è proprietario di un piccolo albergo e affitta le stanze alle ragazze, e quelle che non possono pagarsi la stanza, quelle con 3 clienti al giorno, gli portano i soldi ogni settimana, ma loro sono considerate delle lavoratrici sessuali. Penso che questo sia un dibattito lungo in questa sede, ma mi sembra che il fulcro della questione sia che le donne che hanno riconosciuto i loro diritti umani, che hanno accesso a un'economia non di schiavitù, non vogliono essere né prostitute, né puttane, né lavoratrici del sesso. Allora, è stato chiesto poi a Lidia Cacio cosa c'è dietro questa glamorizzazione della pornografia, della prostituzione, questa visione patinata promossa dai mezzi di comunicazione. E la risposta è stata: sto facendo indagini negli Stati Uniti su quali siano i produttori reali delle serie televisive. È molto importante saperlo. Da dove vengono i soldi? Gli investimenti economici per la produzione di serie televisive che celebrano e glamorizzano tutte le forme di prostituzione e di sfruttamento delle donne. Le attrici più belle sono delle lavoratrici sessuali felici, lavorano come massaggiatrici, possiedono sempre una villa negli Stati Uniti, come Client List ad esempio. Esiste una serie TV colombiana che è mandata in onda tutti i giorni in televisione e ora anche in Messico, e che consiste in questo: nella glorificazione assoluta della lavoratrice sessuale VIP. Tutte sono bellissime, tutte sono felici, tutte possiedono delle ville, i clienti sono tutti ubbidienti e le ragazze che lavorano in quei bordelli VIP sono anche adolescenti. Gli investimenti per produrre questa serie televisiva provengono dalle mafie dei narcotrafficanti colombiani. Fa parte di un'indagine che sto facendo per le mie figlie, per loro, per le ragazze di 18-19 anni, poiché a chi interessa osannare la prostituzione? Ridursi a oggetto è molto più semplice che riflettere, dice un personaggio di una delle serie. Cioè, una ragazza di una delle serie colombiane dice: per me essere un oggetto per una notte è molto più facile di dover pensare. E il giorno dopo va all'università. Sì, le mafie investono molti soldi, non possiamo dimenticarcelo. Le mafie investono molti soldi nel rafforzamento dei valori culturali che sostengono la violenza, tutte le violenze. Ogni volta che Washington decide di invadere un paese per il petrolio o per qualsiasi altra ragione, quasi sempre il petrolio, Washington investe grandi somme di denaro. Il Pentagono produce film di guerra. Ed ecco allora che in tutti gli statunitensi rinasce il patriottismo. Proprio la stessa dinamica che utilizza Washington per il cinema di guerre viene impiegata dalle mafie dei trafficanti per osannare la prostituzione, la pornografia e inoltre la prostituzione giovanile. Quando scrivevo I demoni dell'Eden, feci pratica di hackeraggio per capire come entrare lì, non dove entra chiunque in cui si legge sesso con bambini, no, bisogna scavare in profondità. Centinaia di migliaia di pagine in cui ci sono uomini che si videofilmano e condividono i loro video e le loro informazioni. Molti di questi sono uomini che si recano in luoghi come la Thailandia o Cambogia o alcuni posti in Messico, Costa Rica o Cuba per fare sesso con bambini e bambine di meno di 10 anni. Ma in molti casi sono uomini che partono alla ricerca di un bambino o di una bambina che tengano prigionieri in casa, filmano tutto, condividono i filmati e poi si disfanno di questi minori. Quello che sta accadendo è che la società mondiale, i genitori, i padri e le madri, i giovani, non stanno capendo che l'accesso alla pornografia attraverso internet sta creando un ritorno alla normalizzazione della violenza sessuale su bambini e bambine. È da 3 anni che vado nelle scuole in Messico e negli Stati Uniti. Cerco sempre di andare a parlare con i ragazzi e le ragazze. In cambio delle mie conversazioni su questi temi, domando sempre loro: quanti di voi vedono pornografia in internet? E aggiungo: prometto di non dirlo ai vostri genitori. L'80% degli studenti dai 13 ai 15 anni vede pornografia 2 volte a settimana. Ora, loro non vedono pornografia adulta, a loro non interessa vedere un signore o una signora di 30 anni che fanno sesso. Loro vogliono sapere come i ragazzi della loro età fanno sesso. Ed è lì che subentrano le mafie, perché la pornografia infantile e adolescente, quello che si chiama teen o early teen porn, viene fabbricata dagli stessi produttori di pornografia adulta. Loro hanno già compreso da tempo che questo è un mercato gigantesco. È illegale? Sì, ma dal momento che i nostri paesi, i nostri governi, non sono preparati a perseguire legalmente questi produttori, perché hanno tante altre cose da fare, cioè non si stanno concentrando sulla questione, le centinaia di pagine di pornografia infantile, barely teen le chiamano, ma in realtà sono adolescenti, che vengono prodotte, chi è più interessato può vedere Cinemax, che è un canale televisivo a partire dalle 22 in Messico. Può vedere il soft porn, e in questo soft porn alle 10 di sera Cinemax legalmente mostra 2 serie in particolare. Una si chiama Barely Teen e l'altra si chiama La bambinaia focosa, che mostra un uomo adulto, che è il padre dei neonati che segue la bambinaia, la mamma è al lavoro, il padre torna a casa sempre presto e la tata seduce l'uomo, ma lei è sempre un adolescente. E questo è legale, è in televisione. E di nuovo la normalizzazione assoluta degli spazi legali aperti di pornografia adolescenziale e della differenza di ruoli e della normalizzazione sessuale tra uomini adulti e adolescenti. Credo che in tutti i paesi come il Messico, ad esempio, l'argomentazione della povertà continui ad essere un'argomentazione molto semplice, perché quasi qualsiasi persona che sente parlare del Messico penserà forse è di sicuro un paese molto povero, tutti sono poverissimi e le persone per disperazione farebbero qualsiasi cosa. Ma in tutti i paesi vivono molte persone povere, incluso in Italia. Chiedetelo alle mafie come sono diventate miliardarie. Mi sembra però che i fenomeni sia della violenza che contro le donne che della violenza infantile e la tratta siano molto simili in Italia, in Spagna e in Messico. Ora la Spagna si trova ad affrontare un incremento brutale di femminicidi e questo ha a che vedere con un cambiamento sociale che deve riconoscere l'ingiustizia relativa alla violenza contro le donne. Ma nuovamente le donne sono state istruite, ma gli uomini che esercitano violenza non hanno frequentato questa scuola e loro sono molto arrabbiati. Mi sembra che i fenomeni siano molto simili, più di quanto alcuni politici vogliono accettare. Ad esempio, il presidente messicano di recente, in una conversazione sulla violenza, affermava: ah sì, ma noi siamo il Messico, non siamo mica l'Honduras, e l'Honduras fa lo stesso con il Salvador, eccetera, eccetera. Lidia Cacio sulla PAS. Segue poi una domanda che è stata fatta a Lidia Cacio sulla PAS, la sindrome di alienazione parentale. Dice Lidia Cacio: anche in Messico è stata approvata la legge sulla PAS, la sindrome di alienazione parentale. Abbiamo avuto una lunga discussione con i deputati e i senatori perché non sapevano chi era stato ad approvare la legge sulla PAS, il creatore del concetto di alienazione parentale. È un tipo che era stato dichiarato affetto da demenza, non solo, se si cerca su Wikipedia si trova l'esatto profilo di quest'uomo, che aveva divorziato da una donna che lo aveva accusato di violenza domestica sistematica ed era stata in grado di provarlo. Era un tipo incredibilmente violento con sua moglie e con i suoi nipoti, è stato lui a creare l'idea. Chi sono quelli che hanno lavorato per approvare la legge sull'alienazione parentale nel mondo? Sono gli uomini che esercitano violenza e che avallano l'alienazione parentale da un punto di vista più contorto, e cioè i giudici che esercitano violenza. Ho seguito il caso di un giudice in Messico, è un breve aneddoto che però serve ad illustrare l'argomento. Un giudice di diritto di famiglia, il quale sistematicamente, indipendentemente dalla qualità degli elementi di prova presentati dalle avvocate della nostra organizzazione di nonne per dimostrare abusi sessuali infantili, violenza fisica su bambine e bambini, eccetera, il giudice in ogni caso dichiarava innocente l'uomo e toglieva la custodia dei figli alla donna e la dava all'uomo. Allora l'avvocata è venuta da me dicendomi che non era possibile ed io decisi di indagare sul giudice. Indagai finché scopersi che tutti i giorni che lui usciva di casa chiudeva a chiave tre porte e a una di queste metteva un lucchetto, e dal momento che sono una reporter andai a sbirciare per capire cosa ci fosse dietro alla porta. Dentro alla stanza c'era una giovinetta di 18 anni che lui obbligava ad essere sua moglie e che aveva rinchiuso legandola con le catene. Dopo che io ho pubblicato la notizia, il giudice è stato messo in carcere, ma questo era uno dei giudici più rispettati della zona. Era un grande esperto del diritto di famiglia e grande difensore della sindrome di alienazione parentale. Se un qualsiasi uomo che conosce il diritto penale, di famiglia, eccetera, che possieda un codice etico effettivo, respinge la PAS, cioè un qualsiasi uomo appunto che respinge la PAS, la maggior parte delle persone che accetta la PAS, uomini e donne che siano, perché lo sappiamo, molte donne sono maschiliste, sono a favore della violenza contro le donne, i bambini e le bambine. Non ho dubbi su questo. Que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo. Ed ora vi lasciamo con una frase di Lidia Cacio: le mafie mi vogliono morta, non per quello che so, ma per quello che voi e le vostre figlie saprete leggendo i miei libri. Grazie a tutte e vi ricordiamo la nostra email connettive@gmail.com, ripeto connettive@gmail.com, e saremo in replica il 25 novembre. Non mancate. Buonanotte. Poncho abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera clave el rojo sobre el pecho, toda esperanza. Ven y te estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma. Canción de cuna, sus labios dejaron lejos los fusiles, necesitan su claro pecho, un alarido delante.